tornando al calcio e per dire anche ai possibili campioni che poi sono quelli che ci interessano, secondo me noi dovremmo fare, e qualche paese già lo fa, una scuola per quanto riguarda poca specializzazione, molta attività tecnica fino a un certo punto, diciamo 13-14 anni. Poi incominciare la costruzione del, quando hai il calciatore, lo costruisci anche come atleta, e a 17 anni, esageriamo un concetto, 17-18 massimo lo getti però nell'arena a giocare. Sì, ecco. Sì, trovando la collocazione giusta per farlo crescere, perché come mi ha detto... Certamente anche la Serie C. Ad esempio, certo, io non vedo giocatori nostri, di squadre anche importanti, andare a fare campionati, per dire, meno importanti, quali possono essere quello svizzero piuttosto, bravissimo, che quello belga, piuttosto che il nostro. Ma, il nostro, certo, per un giovane, certo, sarebbe, certo, un campionato molto interessante in Ucraina, perché sicuramente il giocatore deve arrangiarsi di più, sì, quindi sì, ha, sì, proprio più stimoli per crescere, ecco.